sangue senca in faccia file argente, e a una sfuso l'ogni mei. Ho marcato le formella sotto banca e santilla, a una lacrime Pompei. E mo mi viene un suono. La stazione Garibaldi.